Teatro Duse presenta una serie di eventi importanti, tanti percorsi veramente per spaziare dalla danza al musical, oltre alla prosa, insomma gli eventi per i 200 anni. Che cartellone sarà? Beh, come hai detto, innanzitutto c'è la grande stagione di prosa che noi abbiamo presentato a maggio e che possiamo dire sta riscuotendo grande successo, perché ad oggi sono oltre 1.150 gli abbonati che hanno sottoscritto l'abbonamento. Oltre al fatto che sono stati venduti, questo è stato molto bello, molti biglietti per gli spettacoli fuori abbonamento che avevamo già presentato a maggio. Oggi presentiamo tutto il resto dell'attività, tutti i percorsi, come ho detto la danza, quello bellissimo dedicato alla drammaturgia femminile, che quest'anno vogliamo dedicare a Michela Murgia, che è stata protagonista di questo percorso per tanti anni qui a Duse. La danza, diciamo, quelli che noi chiamiamo extra, no? Cioè la musica, davvero un programma ricco. Sono oltre 80 titoli per quasi 200 giornate di attività. Stavo notando che per la musica ci sono appuntamenti assolutamente prestigiosi, ad esempio Patti Smith. Hai visto? Sì, Non ci facciamo mancare niente. nulla. Davvero, sì, sono appuntamenti importanti dal punto di vista musicale, tanti. Poi, come ricordi, c'è la sede, di Orchestra Senza Spine, che porterà anche l'opera lirica, quindi davvero tanti appuntamenti. Non dobbiamo dimenticare che questa è stata anche la casa di Gianni Morandi per 36 concerti, quindi diciamo che si è aperta alla musica pop, ma anche alla musica classica al Duse. Nella rassegna drammaturgica dei Racconti di Donne c'è anche una serata di Vladimir Luxuria. È uno spettacolo molto toccante, si chiama Princesa, è uno spettacolo che ha debuttato quest'anno al Festival di Borgo Verezzi con grandissimo successo ed è una storia vera che lui racconta di un ragazzo che si chiama Fernanda e che ha deciso di cambiare, diciamo, di adattare la sua vita alla sua figura femminile. È stata una storia vera, molto tragica, che Vladimir ha raccolto, che interpreta con grande bravura e con grande emozione. Rispetto alla stagione precedente, diciamo che comunque era andata bene, visto quello che arrivava prima, quali sono le vostre aspettative? Ma guarda, come ho detto, il riscontro è già positivo. La stagione di prosa al momento ha raccolto 1.150 abbonamenti, che sono un risultato molto importante. E già molti biglietti sono stati venduti per gli spettacoli fuori abbonamento e per gli spettacoli che dedichiamo al Duse 200. Non dimentichiamo che parallelamente alla stagione, ospiteremo anche gli spettacoli del Duse 200, che sappiamo essere, diciamo, interpretati da amici del Duse, quindi Bergonzoni, Vito, insomma il programma lo conoscete. Quindi io penso che finalmente siamo fuori dal guado e quindi ripartiremo. Certo, con altre prerogative, perché non è più come prima, questo lo dobbiamo dire. Però c'è un modo per, diciamo, passare la difficoltà, questo l'abbiamo messo in pratica, siamo riusciti comunque a, diciamo, anche a dare lavoro a tutti i nostri dipendenti, anche in questo periodo molto difficile. Il pubblico ci è sempre stato vicino e speriamo che quest'anno si possa, diciamo, raggiungere quell'obiettivo che avevamo raggiunto nel 2019 di 800 spettatori di media al giorno. Quindi è un teatro aperto sempre. Come dico, noi quest'anno non abbiamo chiuso mai, a parte l'agosto, anche giugno e luglio sono stati mesi di attività.